Con Mario Sesti per i 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2021. Auguri, ben trovato. Auguri a te, caro Federico. Ritorna finalmente un appuntamento che ormai è una tradizione immancabile, direi. Sì, sì, l'altro anno chiaramente era saltato, però quest'anno ci siamo detti facciamolo anche per dare un segnale. E diamolo questo segnale, facciamo un bilancio e poi dici tuoi. Mi sembra difficile non iniziare con uno dei più bei film italiani degli ultimi anni, che è quello di Sorrentino. Io non sono tra quelli che, pur avendolo amato nei primi film, avesse ammesso una resa incondizionata su tutti gli altri. Ho partecipato anch'io con versamenti e lussazioni alla grande battaglia della grande bellezza, cercando di difenderlo da chi lo distruggeva e cercando invece di offrire alcune riserve da chi invece ne faceva un monumento. Questo ultimo di Sorrentino, è stata la mano di Dio, mi sembra francamente il suo più bel film. Credo che sia anche il primo film su Napoli in cui il mare è coprotagonista, perché i film su Napoli sono quasi sempre invece all'interno di piccoli penombre, suburbi, eccetera, eccetera. Ci sono altri due film italiani che ci tengo a segnalare. Uno di questi è Aria ferma di Leonardo Di Costanzo, che stava a Venezia. Leonardo Di Costanzo è un altro regista appartato, ma è un vero autore, uno dei pochi veri autori italiani che si siano formati le ossa, secondo me, negli ultimi 15-20 anni, con Silvio Orlando e Servillo, una storia carceraria, claustrofobica, ma di una drammaturgia intensa, sobria, solidissima, un grande film, sia di messa in scena sia di attori. In genere le due cose non coincidono. Di Costanzo è uno tra i pochi che riesce a far recitare sia delle mura scostate che dei grandi attori. Poi c'è un film quasi completamente sconosciuto, ma secondo me forse è il più bel film italiano dell'anno, che è Due di Filippo Meneghetti, un autore italiano che riuscì a fare il suo film solo in Francia e ha avuto l'onore addirittura che il suo film è stato candidato dai francesi all'Oscar. È una cosa che credo non abbia precedenti, che i francesi abbiano candidato all'Oscar un film per la Francia diretto da un italiano. Secondo me è la migliore regia, è un autore assoluto. Se tu mi dovessi chiedere un regista da tenere d'occhio, direi proprio assolutamente lui. Poi c'è Competizione Ufficiale, Competizione Ufficiale, il film che stava a Venezia, divertentissimo, con Banderas. Non vedevo un film così divertente e intelligente da anni. Sembra un film dei Monty Python girato da Antonioni, cioè uno stile di inquadratura veramente di grande originalità, di grande stilizzazione e allo stesso tempo delle trovate spassosissime che ti fanno rotolare per terra. Sono, credo, a questo punto a 4, se non sbaglio. Sì, sì, giusto? Veramente sono altri 3, però diciamo, non lo so, Scompartimento numero 6, La scoperta di fine anno, trovo che sia un film di questo regista Osmanen, regista finlandese, un altro che è un film girato in un treno con una camera a mano così morbida, così accogliente, così empatica, che ti porta sull'orlo di una inevitabile fine e poi la lascia sciogliere così, cioè, se non voglio spoilerare, veramente, che lì c'è una protagonista che sembra un po' una specie di finlandesona un po' rozza, un po' robusta, poi piano piano man mano il film avanza sempre più bella, sempre più aggraziata, un miracolo. Poi metterei al pari posto due film mainstream che mi sono molto piaciuti, Dune e Diabolico. Diabolico faccia con forza contro tutti i gufi che subito dopo i primi timidi incassi su Facebook hanno cominciato a sghignazzare. Si tratta un film invece, secondo me, di un'intelligenza stilistica e anche commerciale. Credo che Diabolico poi alla fine raccaderà molto più di quello che gli altri minacciavano non potesse fare, ma che nei tempi più lunghi si rivelerà anche quello un film di intelligenza anche produttiva, non solo stilistica e linguistica. Ricapitolando, 3 film italiani in questo caso, quindi Sorrentino, Di Costanzo e Filippo Meneghetti. Poi ci metterei Competenza Ufficiale, che sono di due registi, uno credo sia argentino e l'altro spagnolo, se non sbaglio, Scompartimento numero 6 e poi Dune Diabolico. Vedi un po' te, se devi tagliare qualcosa taglia, diciamo, i mainstream, ma insomma fai tu le solite alchimie magiche con le quali poi fai rientrare tutto. Senti, un bilancio tra intasamenti, uscite lampo, piattaforme, sale semideserte. Do quasi sempre ragione a tutti. Do ragione a Sorrentino quando dice che ormai il futuro del cinema d'autore è nelle piattaforme, perché film come il suo, ma anche come il Roma, probabilmente non si sarebbero potuti fare. E do anche ragione a chi invece dice no, basta, con queste piattaforme e quando uno ritorna in sala si rende conto che cos'è il cinema davvero, e anche quando è semi vuota una sala è sempre più bella che non un tinello semi illuminato. E quindi, come diceva un'altra Truffaut in una lettera, non esprimo mai un'opinione così forte, perché ho sempre ragione, ho sempre il timore che gli altri abbiano più ragione di me. Quindi credo che tra queste due oscillazioni, questi due vacillamenti, ci sia la vita difficile, avventurosa, ma anche splendida del cinefilo, che si continuerà a barcamenare, almeno continuo a farlo io, tra la possibilità, che ne so, di vedere Agnès Varda su Mubi, cosa che prima non era possibile, e tra due ore andare a vedere invece Matrix al cinema sotto casa. Mario, un abbraccio e abbraccio, speriamo di sentirci durante l'anno. Assolutamente, molto volentieri. A presto, ciao. A presto. Ciao.